La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. C'è volgarità e volgarità. C'è quella che salta agli occhi e quella che si manifesta con un solo gesto, rivelandosi tutta. Quella di Berlusconi, per esempio, è evidente. Basta guardarlo, con quella maschera da Joker, ridanciana e sinistra, l'ilarità posticcia, la cordialità sospetta dell'imbroglione da fiera che ti sta per tirare il colpo. Come dicevano in Blade Runner, un lavoro in pelle, che si presenta con le suture in vista e si aspetta che lo prendiamo per vero. E ha ragione, perché se gli italiani si sono bevuti le sue bugie, si possono bere anche la sua faccia. La volgarità di Berlusconi è una volgarità di primo grado, ostentata, lineare, coerente. Non c'è niente che la contraddica. Il compiacimento di sé, napoleonico, ridicolo, ribaldo. La corte a sua immagine, maschi e femmine, i servi in ginocchio e i servi che fanno finta di stare in piedi, e sono anche i più penosi. Però non c'è bisogno di essere cafoni per essere volgari. Non occorre essere Berlusconi e raccontare le barzellette sui gay o fare battute da vecchio maniaco dopo il terremoto all'Aquila con 300 morti davanti. Di recente in televisione, Piazza Pulita, sulla 7, ho visto un esempio della volgarità sommessa, di quella di chi sa come si usano le posate. Durante un cocktail, un'inviata della trasmissione si avvicina col microfono a Mario Monti e gli chiede se pensa di candidarsi alle prossime elezioni. Oh, non è un'intervista rubata, come fanno le Iene o Striscia. La stampa è ammessa e la ragazza sta facendo il suo lavoro. Il presidente mangia lentamente una tartina e mentre mastica la guarda come si guarda un insetto. Poi dice: «Non ho capito la domanda». La ragazza gliela ripete. E lui allora, con l'aria furbesca di chi sta per tirare fuori l'arguzia del secolo, le fa: «Se me lo dice in inglese, forse lo capisco». Ovvero l'ha presa in giro. Tutto in tempi lentissimi, alla Sergio Leone, per fare meglio risaltare la sfottitura. E il modo, fierissimo della trovata. Un'aria di superiorità regale, freddo, con immane disprezzo per questa pulce che gli sta davanti. Poi i giovani, i politici si riempiono sempre la bocca coi giovani, credo alla lettera, perché di fatto si rimangiano. E poi gliene capita uno davanti e ne fanno un sol boccone, credo che da questo venga poi la parola bocconiani. Insomma, l'annienta davanti a tutti e poi con un gesto che gli sembra il massimo dell'eleganza le dice grazie e le volta le spalle con una mossa da regina Vittoria. Sobriamente, gelidamente, vanitosissimamente, la voluttà del comando, la soddisfazione d'aver mortificato una che piglia, se le va bene, 1.000 euro al mese. Beh, certo, vale la pena di diventare presidente del consiglio per prendersi certe vittorie. Ma poi, presidente, ma lo sai che ti stanno guardando? Non è una bassezza fatta in un angolo di nascosto, no? No, sai che sei alla TV, ma non ti vergogni? Ma che? Ma allora ti piaci veramente? Ma allora quest'uomo non è solo un freddo esecutore di interessi che non sono i nostri? Allora ci gode a schiacciarci sotto i piedi? Presidente, noi non le chiediamo di diventare più fine, perché la finezza uno non se la può dare. Però almeno si contenga. Il Loden non ripara dalla volgarità. Bisogna vedere come lo si porta. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, ho 22 anni, mai avuto un ragazzo in vita mia, né ci sono state le occasioni. Probabilmente sono io che li allontano inconsapevolmente. Non ho molti amici né amiche. Non credo che il problema sia che mi apro poco con gli altri, dato che con qualche amica l'ho fatto e ne ho ricevuto in cambio solo male lingue e delusioni. Da circa un anno incontro sempre un ragazzo più grande di me nell'università che frequento. Lui non sa nemmeno che esisto. Ogni volta cerco di farmi forza e di parlargli e di presentarmi, ma poi non ne ho mai il coraggio. Come posso fare per uscire dal guscio, con lui o con chiunque altro? Perché la gente non si accorge della mia esistenza? Un bacio, V. Io credo che non se ne accorgono perché prima te ne devi accorgere tu. Ora, se c'è un posto dove i rapporti sono semplici e chiunque può fare conoscenza con un altro, è l'università. Tu non accosti questo studente perché hai paura di essere respinta o trattata con freddezza? E beh, e se lo fossi? L'importante è che tu prenda consistenza nello spazio ai tuoi propri occhi. Come si fa? Leonardo Sciascia nel suo Candido scrive: tutte le cose sono semplici. Ti avvicini, dici sono V, puntato, no? Come hai firmato qua. Però invece declinando per intero il tuo nome, che a noi hai mandato solo con l'iniziale, lo guardi bene in faccia, con la dolcezza e la sicurezza di chi davvero vuole fare una cosa. E se poi non va bene? E se non va bene, succede ai vivi. Intanto hai fatto un passo verso gli altri. Tu sei timida. Timida è una parola graziosa, però viene da timeo, da aver paura. Non dar retta a Don Abbondio. Uno il coraggio se lo può dare e come. Anzi, è una balla che uno il coraggio non se lo può dare, perché solo tu te lo puoi dare. È un dono che ti fai con le tue mani, te lo consegni. Ecco, questo è coraggio. E dici a te stessa, fanne qualcosa, ti farà bene. Perché la paura è come un cappottone che ti protegge dal diventare come sei. Si può sfilare con grazia, con un solo gesto, lo si lascia cadere a terra. E guarda, che ci si sente molto leggeri dopo. Ben sapendo che non è una volta per sempre, che poi questo cappottone torna e te lo devi ogni volta togliere, come quando fa freddo. È il lavoro di vivere. E hai 22 anni, forse è ora che cominci. La guardiana del faro. Sono arrivate molte lettere sulla Sardegna. Renata mi prega di parlarne ancora, ma guarda, ne abbiamo parlato molto. E se cerchi nel podcast della guardiana del faro troverai più di una puntata dove si parla delle iniziative di Filippo Martinez Auristano, come le 6 lezioni esemplari o il corso sulla prevenzione dell'idiozia, e anche resoconti dettagliati sui corsi dell'università di Auristan. E se vuoi avere un saggio dell'avanguardia di Auristano, credo che trovi su YouTube anche il corto di Paolo Zucca, intitolato L'arbitro, che ha vinto premi in tutta Europa, con l'interpretazione meravigliosa di un attore sempre di Auristano, Luca Pugeddu, che in questo momento è attivo in un'altra avanguardia teatrale, a Londra. E inoltre a Auristano, Paolo Zucca ha appena finito di girare la versione lunga dell'arbitro, che uscirà, credo, l'anno prossimo. E poi scrive Silvia, che è di Auristano, e abita a Cipro e dice: spero un giorno di poter tornare lì a vivere e di poter fare crescere i miei figli nell'avanguardia sarda, e spero che tutta la massa di turisti che affolla e deturpa la parte nord della mia isola non arrivi mai a colonizzare la mia tanto amata città. E Mauro invece si sbaglia, dice che ho letto alla radio I cammellini della memoria, un racconto di Filippo Martinez, e invece sbaglia, è Nicoletti che lo ha letto più volte. L'avrò probabilmente citato, ma non l'ho letto. In ogni caso, fa parte di un libro di Filippo Martinez che uscirà presto e si intitola Il mio funerale è stato un disastro. Come sempre, i libri più belli li leggo per caso. L'ho detto tante volte, non seguo le novità che scorrono a migliaia sul tapirulan troppo più veloci della vita. Però una sorte benevola mi fa planare sul tavolo dei libri importanti. E per caso mi si rivela l'eccellenza della letteratura italiana. E quindi sempre più stonato e falso suona alle mie orecchie e mi suona l'eterno lamento dei critici che da decenni piangono, il romanzo è morto, che poi non valgono molto neanche come iettatori, perché più loro piangono e più continuano ad uscire dei libri belli. Ho letto per caso Michele Mari, Antonio Pennacchi, Isabella Santacroce, Ermanno Cavazzoni, Carlo D'Amicis, Chiara Valerio, Marco Baliani, Umberto Polignano. E adesso l'ultimo, Storia della mia purezza di Francesco Pacifico, che è uscito per Mondadori nel 2010. Questa storia di una castità caparbia e sospetta e di molto altro. Un libro di assoluta originalità per argomento e stile. È da poco dello stesso autore è uscito anche con Minimum Fax Seminario sui luoghi comuni, dove lotta con i suoi maestri Proust, Maupassant, Melville e Capote. Io ho letto il romanzo di Pacifico per caso, appunto perché era fra gli scrittori che ho incontrato a Ventotene durante la gita scolastica letteraria di cui vi ho molto parlato, che aveva come capo spirituale Lidia Ravera ed era stata organizzata dalle Turbine. Pacifico io l'ho notato subito per come era vestito. Non dico male, ma sembrava un po' come in maschera, una specie di boy scout di 30 anni, pantaloni corti che mettevano in mostra le gambe pelose. E vabbè, estate, siamo in un'isola, 40 gradi, però di solito se uno mostra la zampa, dopo la lascia libera in un sandalo leggero. Pacifico no, finiva la gamba pelosa ed era imprigionata in una scarpona coi lacci e, come tratto punitivo, pure i calzini corti, come vanno i preti sposati. Essendo peraltro, nella scrittura e nella vita, un esteta esasperato. Ed ero molto curiosa di vedere se anche nel romanzo avesse messo qualche ostacolo alla libera espressione di sé, se avesse usato qualche trucco per peggiorarsi, come se l'abito fosse la metafora di una mortificazione della scrittura. Ed ero anche curiosa del romanzo perché Pacifico, a Ventotene, aveva raccontato della sua educazione cattolica religiosa raccapricciante e molto interessante, e apriva uno squarcio di fanatismi che ti aspetti solo dalla più fonda provincia americana. Questi gruppi di cattolici integralisti, iperortodossi, con separazioni ideologiche feroci, dove se ti discosti dai dogmi del gruppo vieni disconosciuto come amico e come parente. E così apro il libro, avida di ritrovarci dentro quel mondo, e ce lo trovo. Nelle prime 50 pagine, che poi sono le più legnose, dopo si dispiegherà in pieno la potenza della scrittura. In questo inizio c'è questo fanatico cattolico che vive in castità concorde con la giovane moglie, appena ravvivato dal sogno segretissimo delle tette morbide della cognata Ada. E lo troviamo impegnato in un'impresa turpe. Sta scrivendo un libro antisemita, un libro scandalo, dove c'è la grande rivelazione: Papa Wojtyła era ebreo. Un libro ignobile, con intenti ignobili, con compagni ignobili. Il protagonista, questo Piero Rosini, vive in un'atmosfera cupa, pesante, rigida, malefica e oltretutto falsa, artefatta. Quando ad un tratto, quando meno te lo aspetti, e anche qui la grande originalità del libro, eccolo che vira in un umorismo che ricorda Italo Svevo. E tra l'altro salta agli occhi l'assonanza del nome del protagonista, Piero Rosini, con Zeno Cosini, della coscienza di Zeno. Insomma, in Storia della mia purezza, dopo il tunnel della follia religiosa, violenta e burocratica, questo fanatico religioso si trasforma in un clown che nella sua inadeguatezza ci somiglia. E il tema della religione distruttiva si trasforma in un gioco, con l'arte di rendere insopportabile e irresistibile il personaggio. Gli si vuole bene a quel tanghero di Rosini, per il quale l'unica cosa che conti è la scommessa della castità. Finché conosce una strana ragazza, che si chiama Lavinia, e finalmente accade un terremoto. Qualcuno ride di lui. E la rivoluzione è che lui riesce a ridere di sé. E finalmente non si fa schifo. Lavinia è libera, matta, ridente, e sarà il filo d'Arianna per condurlo a Parigi e cambiare gioco. A Parigi è libero da tutte le pastoie, da tutti gli obblighi di Roma. E a Parigi la sua castità, invece d'essere questa camicia di forza, questa diventa una stranezza. Diventa uno dei divertimenti del grande circo. Rosini finalmente ha il ruolo del buffone e diventa, nella sua goffaggine, sopportabile a se stesso. Incontra quattro ragazze bohemienne, raffinate, che sono Benedetta, Clelia, Iette e Ana, che lo raccolgono. Lui scrive: mi raccolsero e mi fecero loro, come i parigini raccolgono i mobili smessi lasciati sotto casa dai vicini. Ero un'enorme cenerentola pelosa, un languido insetto sudato. E scopre un grande personaggio, lo zio Leo, zio della ragazza Clelia, che gli affitta un bel appartamento a un prezzo ridicolo solo per fare conversazione con lui, per litigarci, senza sapere niente né della storia che lui sta intrecciando con la nipote Clelia, né che sta per uscire questo suo libro vergognosamente antisemita. Leo gli dice: io avevo le idee chiare fin dal principio, sono uno dei pochi ebrei senza un briciolo di senso di colpa, facci caso, esaminami. E le canne, che oggi sono una pratica conformista, per Rosini diventano un'epifania e non lo fanno diventare un genio, ma amabile, e scopre le donne. una volta adottato dalle ragazze, sta sempre con loro. È come il cugino dell'infanzia, quello che si mischiava a noi senza nulla pretendere. Rosini si è lasciato indietro tutto, ma una cosa ha mantenuto, ed è la sua ambiguità da sicario. Questo grosso Peter Pan con setole da maiale, che non vola, ma assapora il volo, e il volo è questa nostalgia stupefatta della donna. Perché è anche un romanzo erotico, in quanto l'erotismo può essere espresso solo per negazione. La sua Parigi è un risarcimento dell'adolescenza negata, della gioventù artefatta. Rosini a Parigi diventa uno spensierato, un fanciullo che finalmente ha trovato la chiave della stanza dei giochi e non ne esce più. Ed è dannoso come lo zaino di Svevo, anzi di più. Però viene ammesso alla stravaganza delle donne. Si diverte con le donne, anche se rimane torturatore di se stesso e di quella che lo ama. Viene ammesso ai riti segreti delle baccanti di Euripide, però di Parigi, ed è un Penteo che non verrà punito perché è davvero complice. Se la cava con la grazia, con la scoperta più segreta delle donne, l'innocenza. La sua castità diventa un modo per giocare con loro. Non pratica il sesso, molto di più, si immerge in esso. E Clelia, quella che all'inizio veniva descritta come la più brutta, diventa poi la più graziosa. Ecco, di rado ho visto un autore maschio, eterosex, immergersi con tanto giubilo e incoscienza nel mondo segreto delle donne, che è quello dell'immaginazione. Ma il segno della riuscita dell'inqualificabile Rosini come personaggio è che la sua scelleratezza, la sua frivolezza ti confondono. Questo tartufo che dorme con la sua innamorata Clelia senza toccarla e la fa dannare e chiama questo castità. Insomma, leggendo credi nell'esistenza di Piero Rosini. E questo è letteratura. Si dice spesso, ma quello è un personaggio letterario, intendendo schematico, non vivo, costruito. Ma è una sciocchezza. Personaggio letterario, magari, vuol dire una sintesi folgorante di umanità, perché la letteratura fa gli uomini o non fa. Credi nell'esistenza di Rosini come credi nell'esistenza di Zeno o di Bellamy. Lui a queste ragazze nega solo il sesso, che è una ben piccola parte di sé, anche in proporzione, pochi centimetri davanti a un grosso uomo come lui, poco più di un orecchio. Perché le donne stanno bene coi gay? Perché con un gay si scavalcano tutte le smorfie e le finzioni di quando si può finire a letto insieme, di quando fra un ragazzo e una ragazza aleggia la minaccia possibile del contratto, del matrimonio o dell'impresa a delinquere che è mettere su una famiglia. L'innocenza di Piero Rosini, il protagonista di Storia della mia purezza di Francesco Pacifico, è dannosa comunque. È un'oca Rosini, una vera oca. Un'oca amabile quanto letale, che sulla sua vacuità può appiccicare qualsiasi pecetta pur di esistere, l'antisemitismo come la castità, ovvero un'avarizia di intelletto e di cuore. E poi, quando si è messo al centro di un pasticcio così intricato, che adesso gongoli, dici, ma che farà adesso? E ti aspetti chissà quale soluzione, l'autore ti fa questo colpo basso, lo uccide, te lo fa prendere sotto da una macchina. Ora, a parte che gli sta bene, ma chi legge rimane male. Dice, ma come, lo sottrai al giudizio? Come disse Marina Tsvetaeva quando si sparò Majakovskij, ha liquidato se stesso come un nemico. Aveva proprio una gran smania di accoppare questo sosia deforme dopo averne fatto il suo zimbello. Ma questa è anche una citazione, perché Pacifico fa morire Rosini come davvero morì Svevo, investito da una macchina, sul più bello, quando finalmente, povero Svevo, il mondo letterario si era accorto di lui ed aveva successo come scrittore. Solo la letteratura può essere stupida come la vita. E comunque, l'omicidio di Pacifico è inutile. Non creda di averla finita con Rosini. Chissà quante volte dovrà resuscitarlo. Perché questo libro è solo con Bré. Il resto verrà. Perché dentro Francesco Pacifico ci deve essere una folta stirpe di rospi, insigni e barocchi che non vedono l'ora di essere sputati fuori in forma di letteratura. Lo speriamo per loro, per lui e anche per noi. Perché Storia della mia purezza è un gran bel romanzo. E Rosini, l'inetto Rosini, il buffonesco, il colpevole, il pessimo Rosini, una volta letto, ci accompagna. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка. E io lo ascoltavo col cuore in mano come un berretto. Allora io non ce l'avevo con gli ebrei, li amavo. Singer, Roth, eccetera. Non so cosa mi fa giudicare affascinanti le idee che più mi si mettono di traverso. All'epoca, trovare Mario e Alberto come sostenitori dell'antisemitismo sofisticato mi si mise molto di traverso. Ecco qua l'efferato autore del romanzo Storie della mia purezza, Francesco Pacifico. Io ho frequentato molto l'underground cattolico e lì ho letto tutta una letteratura che dice vabbè sì, insomma gli ebrei sono stati messi nei campi di concentramento, quindi non se ne può più parlare come se ne era sempre parlato, però in fondo a ben vedere, se andiamo a controllare nelle redazioni dei giornali, se andiamo a vedere quando sono crollate le Torri Gemelle non c'erano dentro ebrei, c'è tutta una letteratura cattolica che ama andare a riscoprire un po' quel sentimento antisemita che era abbastanza comune e autorizzato prima dell'Olocausto. C'è secondo me un rapporto molto bello tra la paura di quello che ti può fare un certo gruppo sociale e la paura del sesso. Quindi contemporaneamente Rosini è impotente e allo stesso tempo ha tantissima paura di questi ebrei che avrebbero in mano il potere culturale e finanziario del mondo e dell'Italia e dell'Europa. Insomma, per me era un accoppiamento quello di impotenza sessuale e antisemitismo veramente irrinunciabile, anche perché sono temi che sono trattati molto dai comici ebrei americani, che io seguo molto, dalla letteratura degli ebrei americani, quindi insomma mi sembrava un argomento da trattare. Vi è mai capitato che a rivendicare il vostro diritto alla libertà ci pensasse la parte peggiore di voi stessi? Il giovane ricco, rimasto vivo e tenace in me, nonostante avessi messo via perfino il sesso per sentirmi povero, il giovane ricco della parabola, che non sa rinunciare alle sue sostanze e se ne va sconsolato dopo l'incontro con Gesù, quel giovane che era la parte di me più odiosa e che fin dal liceo avevo cercato di mettere tra parentesi con le mie scelte politiche, ideologiche e sociali, sbucava tracotante dal nulla e puntava il dito. Cattolici fedeli alla linea, devoti dell'ora della fine del mondo, accusava, casti eroi autoesiliati, stempiature e mestieri di merda, torna in centro Rosini, fuggi le donne in bigodini e i nostalgici del potere temporale della Chiesa. Nella mia fantasia, una cinepresa appostata tra i pannelli solari sul tetto di un palazzo mi riprendeva in chiave Elio Petri, che andava a zonzo le mattine d'inverno in un largo viale della Nuova Roma, coraggioso futuro padre, fra gli inchini rispettosi delle gru, gli schizzi di fango sui copertoni delle macchine, la musica concreta dei registratori di cassa di Ikea, io, l'eroe della rinuncia, capace di abnegazione in tempi carenti di fibra morale, fede, carità, abnegazione, speranza poca, tanta noia. È molto bello perché affiora in questo libro il digiunatore di Kafka. Quando la castità diventa superbia e diventa professione, diventa copertura di tutto il resto, diventa una rinuncia apparente che sì, in verità è un'arroganza sterminata. Sì, certo, c'è un problema alla base, insomma, la formazione del giovane borghese di sinistra degli anni 90 è destinata alla follia, perché cresci tra i vizi e insomma cresci viziato in ogni comfort, però contemporaneamente con questo dovere, insomma, a essere una persona giusta, siccome però non viene educato a essere, che ne so, il signorotto che si comporta bene con i sottomessi, perché teoricamente non dovrebbero esserci persone messe sotto di te, non ci dovrebbero essere classi sociali, ti ritrovi a vivere una vita, per questo paradosso, ancora più viziosa, perché non hai nessuna responsabilità, ma in cui cerchi in tutti i modi di ritrovare un'innocenza, anzi cerchi di uscire da quella posizione in cui per forza devi avere le colpe della storia. E allora ci puoi provare con la politica e poi ci puoi provare anche con la religione, diventando e questo l'ho visto succedere a molti amici e conoscenti borghesi, diventando un cattolico assolutamente, cioè che non si diverte, tu dici vabbè, io sarò anche nato ricco, però chiaramente sto facendo una vita noiosa e quindi insomma ho fondamentalmente rinunciato. Mi sono riscattato come San Francesco, che aveva il padre ricco e poverino, questa cosa sì, però lui è rinunciato veramente, non è che era pieno di cellulari. No, guarda che non conta molto, perché se per esempio rinunci al sesso puoi avere anche 3 cellulari, ma la vita, insomma, hai rinunciato a una cosa consistente. Quindi secondo me l'ipocrisia non è la questione fondamentale. Di solito uno è abituato a parlare dei cattolici in termini di ipocrisia, perché sappiamo che è un po' la caratteristica principale, predicare bene e razzolare male. Ma alla base di questo libro c'era questa idea: io conosco quelli che razzolano bene e sono più pazzi di quelli che razzolano male, quindi io volevo raccontare questa cosa. Era facile dire quello tanto cattolico, c'ha la famiglia, dice che si comporta bene, però poi c'ha un fondo torbido. Io volevo raccontare le persone che per riscattarsi e anche per amore del Vangelo, insomma, cercano di levare il torbido, di levare l'inconscio, di levare qualunque cosa. Quindi invece del fanciullino interiore, questo personaggio ha il giovane ricco interiore, cioè quel giovane ricco irriducibile che è rimasto dentro di lui, anche se lui cercava di spogliarsi, lasciare tutte le sue ricchezze, non andare a letto con nessuno, non divertirsi più, fare un lavoro che non gli piace. A un certo punto riemerge questo erede, questo, capito, questo giovane viziato che vuole spendere tutti i soldi con le prostitute. Cioè, gli esce fuori come se fosse la parte autentica di sé. Mi divertiva l'idea di mettere come parte autentica di una persona una parte neanche brutta in senso epico, romantico, banale. Una parte semplicemente banalmente sì. Brutta. E che poi tra l'altro, comunque nella sua povertà, nella sua pelosa povertà, lui riesce comunque a fare della castità uno strumento di tortura, perché comunque non sceglie solo per sé, sceglie anche pure per altri, la povera Clelia. Certo. Certo, perché quando poi per vanità o per desiderio di ritornare un po' a vivere si avvicina a una donna e scopre di avere comunque conservato intatte la propria capacità di seduzione, poi però non si concede fisicamente a questa donna facendola impazzire. Quindi brutta persona, bruttissima. Quando lui va a vivere a Parigi in questo armadio praticamente, non compravo fiori né piante, anche perché non c'era spazio immagino, in compenso ero farsescamente ordinato. Tenevo i libri sul tavolo impilati per grandezza. Ma la solitudine di un uomo è una lunga giornata senza pantaloni, con le finestre chiuse e una mano costantemente nelle mutande, davanti o dietro, per liberare, grattare, spostare. Imperano gli odori dal corpo, dalla pattumiera, dal lavandino, la polvere dalla tromba delle scale, mai interrotti da un odore felice, tranne forse lo shampoo. Estrema miseria del povero Rosini. Mentre lui sta nel gorgo di questi compromessi, di questi falsi obiettivi, di questa castità che impone anche alla moglie, incontra Lavinia. Cos'è l'incontro con Lavinia? Lavinia la incontra in un bar che ha iniziato a frequentare con il primo amico non cattolico da molti anni. E Lavinia corrisponde un po' a un mio sogno erotico a occhi aperti. A un certo punto ho iniziato a incontrare queste ragazze che prendevano e andavano, che ne so, in Sud America per 2 anni. Quando le iniziai a incontrare all'epoca dell'underground cattolico, mi sembrava proprio il più grande sperpero della propria vita. Queste donne che se ne andavano, che scappavano dall'amore familiare e scappavano da un contesto ordinato per andare a girare. E dai doveri. E invece di diventare donne, invece di andare a farsi una famiglia, si sprecavano completamente andandosi, insomma, a divertire ma anche a faticare, perché poi stare in viaggio per 2 anni non è neanche una cosa semplice. Beh, è anche un impegno. È un impegno, no? E lui si abbandona completamente a questa persona perché lei riesce ad avvicinarsi semplicemente col candore della propria vita sbagliata, ingannata, che Rosini non riesce minimamente a accettare. Scrivi: Parigi è la Madonna delle città, Fatima. Una Madonna che si sceglie come aiutanti dei contadini portoghesi minorenni, come Cenerentola vestita dai topolini. Ma chi vuole davvero pensare che a monte di tutto ciò esista un inferno, un mare di fuoco che scorre sotto la terra? Quando Rosini va a Parigi, va a lavorare anche lì come a Roma in una casa editrice cattolica, un po' meno paranoica di quella di Roma, però comunque lui sta iniziando a stufarsi di questo contesto e fa delle passeggiate con un editor di questa casa editrice e parlano della Madonna. Insomma, vanno dalla Madonna di Rue du Bac, che è, insomma, vicino a Saint-Germain. Questo editor parla con grande trasporto delle visioni della Madonna di Fatima, insomma, e parla con molto trasporto dell'esistenza dell'inferno. Perché effettivamente quando ti lasci prendere da tutto l'immaginario cattolico, così come sei estasiato al pensiero che un giorno potrai contemplare Dio e la verità, no, che è una cosa molto bella da pensare, ti inizi anche a lasciar conquistare dall'idea che ci sia un inferno e dici: pensa se c'è un inferno, si pensa a Dio quanto può aver organizzato bene tutto questo. Fa anche paura, insomma, certe volte l'idea così. Ah, ecco, una delizia per Ossensweil, sempre a caccia di conferme di appartenere al genere umano. E forse la frase più interessante del libro. Insomma, lui quando inizia a uscire con altre persone vede, per esempio, che le persone gli vogliono bene quando risulta stupido. Quindi le frasi che diceva, frasi esagerate, paranoiche, complottiste, iperreligiose, prima sperava di conquistare le persone perché queste frasi erano molto forti, invece la gente si affeziona a lui perché queste perché frasi sono molto ridicole. E quindi diventare una macchietta, diventare bidimensionale, era già un passo avanti, insomma, per lui. Se non hai dimestichezza con le donne, non puoi cavartele in nessuna situazione. Mi è sembrata una frase molto sapiente. L'ho sperimentato perché io, per rimanere fedele, a prescindere proprio a priori alla donna della mia vita, tra virgolette, ho trovato come grande soluzione l'idea di non avere più rapporti con le donne. E in questo modo, dicevo, si elimina la concorrenza, io mi do un'aria da misogino e per, non so, penso 8 anni non ho più avuto rapporti neanche di amicizia con le donne. E poi a un certo punto... Come i veri maniaci sessuali, se vedevi una donna abbassavi lo sguardo. E facevo sempre la battuta che avevo letto sul libro di Gino e Michele di tanto tempo fa: oggi ho salvato una donna da uno stupro, mi è bastato controllarmi. E la leggevo proprio a descrizione dei rapporti tra uomini e donne. No, noi dobbiamo solo controllarci e non succederà niente di male. Perché avevo paura di tutto ciò che non era ancora deciso. Allora io avevo deciso che questa donna era la donna della mia vita, la soluzione era eliminare la concorrenza e come un gangster andavo in giro ad ammazzare tutte le donne che potevano interessarmi. Poi quando evidentemente mi sono stufato di questa situazione, ho iniziato a parlare con le donne, tra cui una specie di Lavinia, insomma, così, ho detto ammazza. E ho iniziato a capire molte più cose, cioè quando ho recuperato la capacità di parlare con le donne... Vedevo che andavo in un posto e capivo anche gli uomini, andavo in un posto e capivo la situazione, sapevo dove tenermi, dove parlare, come entrare in contatto, e tutto dopo che avevo riniziato a parlare con le donne. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Io che credevo di essere nel giusto, amandolo sfrenatamente, credendo che fosse lui a tradirmi, ho ceduto. Io. Durante una breve vacanza, ma quando baciavo l'altro vedevo lui, quando guardavo l'altro vedevo il corpo nudo del mio lui. Non ho avuto rapporti completi, insomma, non me lo sono scopato l'altro, non ci riuscivo e non volevo. Tornata a casa abbiamo fatto l'amore come non mai, non mi stancavo mai di toccarlo e di averlo. Lui ama farmi ingelosire e io divento matta e penso di lui le cose più scabrose e dannate. Quando sento la sua voce mi viene da piangere come quando facciamo l'amore. Ho paura di perderlo e mi sento eternamente vuota. Non mi basta niente di quello che mi dà. Voglio sempre di più, ma mi sento vuota. Qual è il mio problema? Beh, senti questa poi, eh. Chiedi a me qual è il tuo problema. Io dialogo volentieri con chi ne ha uno reale, ma non con chi se lo inventa. Ti rispondo per irritazione. Un problema c'è. Sei molto viziata e ti piacciono troppo le parole. Voglia di letteratura. Ma perché no? Sai scrivere. Ma allora è meglio che tu scriva un romanzo dove metterai tutte queste ubbie, perché nella vita questo ti serve solo a complicare una situazione radiosa. Quelli che tu descrivi, insaziabilità, insicurezza, sono i normali sintomi dell'amore, che è uno stato anormale per eccellenza. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, ho una malattia invisibile. Soffro di attacchi di panico. Immensi, laceranti. 6 anni, 4 specialisti e migliaia di euro. Nulla è servito. Ho lasciato il lavoro e a 36 anni mi ritrovo a casa dei miei, che scriverlo mi imbarazza più di viverlo. Tiro su qualche soldo con la scrittura, ma non ci si campa. In questa quieta baraonda ho incontrato una ragazza che possiede quell'abilità ormai rara di toccare le cose con gesti misurati, muovendo le dita con leggerezza. Una bellezza da cacciatrice con gli occhi brillanti e le mani di porcellana. Ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e mi si è avvicinata. L'ho amata al tempo di capire quanto fossero morbide le sue labbra. Non le ho nascosto niente, non le ho promesso niente e lei ha compreso che l'attesa le sarebbe costata la gioventù. Così ha scavalcato l'ostacolo e si è andata a riprendere il cuore. Non l'ho fermata, non avrei potuto. Poi un giorno ha detto quella cosa, quella che ai tempi dei miei nonni, ma anche in quelli dei miei genitori, non esisteva, perché è un'invenzione moderna, un meccanismo sentimentale di rara perversione. Ha detto: «Restiamo amici». Che l'amicizia tra due amanti è possibile, pure con qualche menzogna, quando la bilancia dell'amore ha i piatti perfettamente allineati. Un solo grammo di emozione su uno di essi squilibra il già precario ossimoro. Le ho già detto che non è possibile, eppure lei non vuole mollare la presa. Ultimamente sta iniziando anche a raccontarmi di nuovi amori. Io non li voglio ascoltare, mi fanno male. So che lei sarà di qualcun altro prima o poi, solo che io non voglio saperlo. Quando tutto è iniziato, io ho scambiato il soccorso per amore e lei l'amore per malattia. Capita che anche l'infermiera più preparata sbagli un'iniezione. Purtroppo lei è scivolata sulla prima. L'ago mi è finito nel cuore, ma l'errore più grande l'ho commesso io. Ho visto che stava scivolando, ho visto dove sarebbe finito l'ago e invece di scansarmi ho offerto il petto per potermene lamentare con il primario. Suo Sergio. Questa mia risposta è una risposta di riparazione, perché ogni tanto succede che si ritrovano delle vecchie lettere di cui ci eravamo dimenticati. E ho ritrovato la lettera di Sergio, è di quasi un anno fa, però mi dispiaceva lasciarla indietro. Ti rispondo ugualmente perché è una bella lettera sull'amore. Tra l'altro non ho granché da dirti, anzi niente. Io sono qui in veste di tua ascoltatrice. Poi, proprio perché sono una gazza e non so stare zitta, ti dico ciò che penso e che tu saprai d'altronde molto meglio di me. Quello che sta facendo questa ragazza, o che stava facendo, chissà adesso cosa vi è successo, sembra un gioco di seduzione. Sembra una provocazione, quasi un atto maieutico per tirare fuori tutta la tua passione e per sottrarti al suo grande rivale, che è il panico. Lei forse sta ingaggiando una battaglia, perché cerca di farti soffrire, non c'è niente da fare, vuole quasi provocare lo schiaffo in qualche modo. E per sostituirsi furtivamente al panico ci vuole qualcosa di altrettanto forte, ci vuole la tortura. È una bella distrazione che ti offre questa ragazza, forse sapiente in amore. Invece di lasciarti torturare da te stesso, se ne carica lei direttamente, lo fa lei. Fa questo atto d'amore, lo fa al tuo posto. Ti mette sulla ruota, sul cavalletto, ti frusta, ti prende a schiaffi e attraverso il racconto di altri amori. Senti, è passato tanto tempo, se ne voglia scrivici ancora, ci sarà stato uno svolgimento. E poi soprattutto, avendoti detto questa cosa, a questo punto sono curiosa come un mago truffatore di sapere se per caso la mia sciocchezza non si sia rivelata vera. Ho avuto ospite per l'estate mio nipote, figlio di un fratello, al quale sono molto affezionata. Mio nipote è un atleta, ma grassottello. Mi ha detto di essere a dieta ferrea e di rinunciare a fargli i soliti manicaretti. Io qualche volta ho cercato di tentarlo, ma lui ha resistito a tutto, anche se non dimagriva molto. Eppure, per quel che ne sapevo io, era quasi sempre a digiuno. Poi, quando è partito, ho fatto una scoperta. C'erano cartacce, involucri di merendine ingrassanti al massimo, con cioccolato, cellophane di cracker e altri segni che facevano capire che il suo digiuno era una commedia. Perché ingannarmi? A casa sua ci tengono che sia magro, ma io lo vedo così poco che lo vizio volentieri. Allora, perché mi ha detto questa bugia? È importante per il mio rapporto con lui. Per me lui è un po' mio figlio. Con lui non ne ho parlato. Non voglio mortificarlo. Zia. Come tutti i drogati, anche il drogato alimentare mente. Inventa a parole le sue redenzioni, per crederci anche lui, sperando che diventino vere, sperando che facciano le veci della volontà, quando invece manca. Nel caso di tuo nipote, lui sta evidentemente sostenendo una lotta tormentosa contro la tentazione del cibo. E gli era facile resistere davanti a te e rifiutare sdegnosamente i manicaretti, perché il figurone che faceva davanti a te lo ricompensava dell'astinenza, lì per lì. Ma dopo la rinuncia si trasformava in credito, si doveva qualche cosa, aveva rinunciato ai soufflé, alle meraviglie e si doveva, sentiva di doversi qualche cosa. E allora consumava di nascosto, con la superstiziosa, patetica e umanissima illusione che mangiare quando gli altri non vedono, mangiare di nascosto, ingrassi di meno. Oh, te lo dico perché ci sono passata, eh? Hai fatto benissimo a non parlargli, a non dirgli che avevi trovato questi segni. Anche se poi non è un caso, eh? Secondo me lui forse li ha lasciati apposta queste tracce, queste cartacce, come estremo segno di una sincerità che rovinerebbe il suo delicato disegno nevrotico. C'è una domanda sottintesa nelle lettere e io ti rispondo senza che tu l'abbia formulata. Mio nipote mi vuole bene o no? Perché mi mente? Io credo proprio che tuo nipote ti voglia bene. E sai cos'è? Che quelle bugie lui le ha dette soltanto se stesso. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre.